La scena è veramente incredibile perché fa venire in mente la casualità, quando è destino trovarsi in un posto e lasciarci la vita, come è capitato per le 9 persone che erano su quel treno, perché è vero che c'è stato uno smottamento, ma questo smottamento è stato in un tratto di appena 20 metri, forse anche meno. Quindi non c'è stato nessun errore umano, non c'è stato... No, questo francamente no, per quel che ho potuto vedere, non so, prima di tutto io non sono un tecnico ma sono solo un politico, secondariamente bisogna che ci siano poi i tecnici che faranno gli accertamenti. Con me è venuto l'amministratore delegato delle ferrovie, l'ingegner Moretti, e abbiamo detto al presidente Durval che c'è la massima disponibilità, se richiesto, di collaborare.